Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo da una notizia di attualità stasera per parlare di una soluzione davvero intelligente, forse un po' troppo intelligente, tanto da far fatica ad affermarsi, soprattutto in Italia. Parliamo degli asfalti gommati, che non sono certo una novità assoluta, cioè asfalti che inglobano al loro interno i residui della gomma degli pneumatici usati, gomma che viene triturata finemente fino ad essere ridotta a un polverino. La notizia è che un tratto sperimentale lungo 1,5 km pavimentato con questo tipo di asfalto verrà realizzato in Val Venosta, più o meno dalle parti di Trento, del Trentino. Il tentativo che si sta facendo in Val Venosta è quello di ridurre l'inquinamento acustico, evitando però di ricorrere alle barriere antirumore, che sono certamente molto efficaci, ma che sono molto impattanti sul paesaggio, soprattutto da quelle parti. Prendiamo spunto da questa notizia per parlare un po' più in generale di questo tema degli asfalti gommati, nella cui diffusione potrebbe essere racchiusa la soluzione a diverse problematiche, come vedremo. Ne parliamo con l'ingegner Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus. Ecopneus è il consorzio che raccoglie i principali produttori di pneumatici italiani e che ha appunto lo scopo di favorire il riciclo, il recupero, il riutilizzo di questi pneumatici usati. Buonasera Corbetta. Buonasera dottore, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, facciamo un rapidissimo quadro della situazione. Quanto raccogliamo di pneumatici usati e che fine fanno, considerando anche che c'è un decreto in arrivo che introduce finalmente, dopo qualche anno di attesa, l'obbligo dei produttori degli pneumatici nei confronti appunto della filiera del recupero? Sì, l'Italia genera ogni anno oltre 350.000 tonnellate di pneumatici fuori uso nelle varie tipologie, da quelli più piccoli a quelli più grandi. E di questa imponente quantità una quota parte importante trova già oggi delle destinazioni corrette, ma una parte abbastanza significativa, il 25%, viene dispersa, genera abbandoni lungo il cammino e li troviamo poi nei prati, nei boschi, abusive, nei capannoni, certo, abbandonati, con situazioni ovviamente di degrado ambientale, problema che diventa poi ancora più grave quando ci fosse un incendio abusivo che addirittura sviluppa fumi e liquidi estremamente nocivi in questo combustione all'aria aperta. Ecco, questo 75% che raccogliamo che fine fa? Ecco, questo 75% raccolto viene incanalato in varie destinazioni, in parte viene utilizzato come ottimo combustibile soprattutto nei cementifici. Questo tipo di applicazione è interessante, ma ha anche alcune limitazioni e pertanto c'è un grosso sforzo per avere accanto a questo anche il recupero di materiale e quindi fare in modo che un pneumatico venga ridotto in granulati, in porzioni piccole, poter quindi a questo punto separare la parte polimerica dalla parte metallica e tessile che costituisce il rinforzo all'interno del pneumatico e utilizzare quindi un materiale elastomerico con grandi caratteristiche chimico-fisiche, che di è questo polverino di gomma, un granulato, che è il polverino, di gomma, il granulo, e nelle varie pezzature viene utilizzato in impieghi che possono andare da pavimenti in gomma per uso sportivo a campi di calcio artificiali a materiale per l'isolamento acustico dei fabbricati e in particolare ad una unione col bitume e con l'asfalto per generare questi bitumi modificati che ricevono dalla presenza di questi granuli polverini una importante elasticità e quindi ci sono manti stradali che hanno la caratteristica di poter resistere molto meglio all'invecchiamento, alle deformazioni, certo, e contestualmente dare anche una riduzione al rumore generato da un veicolo che passa sopra la strada. Ecco, quindi una delle applicazioni più importanti di questi asfalti gommati è la riduzione del rumore di rotolamento proprio delle gomme, vero? Sì, viene ridotto il rumore che si genera di quando quanto? Un pneumatico col suo battistrada rotola sopra la strada e questa riduzione è di alcuni decibel, 2-4 decibel, a cui si unisce anche la riduzione del rumore generale del veicolo, quindi anche gli altri rumori generati da altre fonti, che vengono come dire assorbiti da questo manto e non riflessi e quindi come fosse uno specchio rimandati in giro. Il totale di questa riduzione può arrivare anche a 6 decibel, che è un numero elevatissimo, massimo, essendo il decibel una misura logaritmica, certo, vuol dire di fatto quasi dimezzare il rumore, esatto, che si allarga. In termini reali è circa un dimezzamento, infatti. Sì. Quanto dura di più questo asfalto di un asfalto normale? Mi risponda molto rapidamente però. Sì, ci sono esperienze che portano a vedere durate dell'ordine di 3 volte, quindi una strada dura 3 volte quanto una strada non gommata. E invece quanto costa di più l'asfalto gommato? Il costo nei paesi che hanno ormai sedimentato questa esperienza è dell'ordine del 20% più alto. Quindi, probabilmente in Italia agli inizi sarà un po' di più, sì, per arrivare con un transitorio a questo valore. Quindi un 20% in Italia, 40% in più, però per avere un raddoppio o triplicamento dell'aspettativa, sì, di vita del manto stradale. Sì. È vero che accorcia anche gli spazi di frenata? Sì, per un veicolo che viaggia a 70 all'ora si sono misurate riduzioni di qualche metro, 5-6 metri, che vuol dire molto, perché pensiamo a un attraversamento di un passaggio pedonale, fermarsi 5-6 metri prima vuol dire evitare di mettere sotto qualcuno, insomma. Ecco, quanto è diffuso in Italia? Perché noi curiosamente abbiamo aperto parlando di un esperimento in Val Venosta, ma noi sono anni che facciamo esperimenti, in altri paesi invece è diventata la norma addirittura. Sì, come mai? C'è un elenco, c'è un inventario in Italia di oltre 50 tratti stradali, dal mezzo chilometro al paio di chilometri, fatti in varie parti d'Italia. Allora perché continuiamo a fare esperimenti invece di applicarle e basta, come fanno altrove? Ma perché oggi probabilmente è mancata una capacità che, avendo avuto una risultanza positiva dei test, si passa a un'industrializzazione. La nostra fantasia, la nostra inventiva, la nostra artigianalità fa fare gli esperimenti, e poi la capacità di consolidare questi in sistemi, diciamo, ampi e duraturi è fino ad oggi mancata. Questa cinquantina di tratti assomma a una cinquantina di chilometri, quindi avendoli fatti in zone nord Italia, sud Italia, montagna, vicino al mare, abbiamo anche non ci sono più scuse, insomma, sta molto, dicendo, sì, l'abbiamo vista dappertutto, anche. A parte che forse bastava andare a guardare in tutto il resto d'Europa, o almeno in molti altri paesi europei. Grazie Corbetta. Prego, grazie a lei e arrivederci alla prossima occasione. Domani restiamo sull'asfalto, quello di una pista per una gara molto speciale, la Shell Eco Marathon. Beh, signori, trionfo italiano. Buona serata.